Italia in controluce, la politica nel tunnel. Eh sì, siamo sempre nel tunnel e lo saremo fino a che non ci diranno quale sarà il nuovo governo, e fino a quel momento Italia in controluce lo ha promesso, vi racconterà rigorosamente in diretta quella che ho chiamato la missione impossibile di Bersani, con un slash. Dopo le parti sociali, il Presidente del Consiglio preincaricato incontra le principali forze politiche. Oggi è il turno di PDL e Lega. Sul tavolo non c'è un accordo di governo, nemmeno una larga intesa, ma lo snodo della crisi politica è il Quirinale. Berlusconi chiede un posto alla guida del Colle alla termine del settennato di Napolitano, ma potrebbe accontentarsi di una figura istituzionale, a lui non ostile, come l'attuale ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Se dovesse andare in porto la trattativa sul Quirinale, la strada di Bersani verso Palazzo Chigi potrebbe mettersi anche in discesa. PDL e Lega potrebbero adottare in quel caso delle tecniche parlamentari in grado di fornire la fiducia a Bersani. A quel punto basterebbero i voti, che sono molto probabili, di Scelta Civica, forse di un drappello di dissidenti grillini, per dar vita a quello che Bersani chiama governo di cambiamento. Ma Grillo, secondo il giornale, avrebbe un nome da spendere per il dopo Bersani. E chi sarà, se non, secondo Grillo, Giorgio Napolitano, che Grillo aveva chiamato Morfeo, e poi dopo ha chiesto scusa al Presidente della Repubblica. Secondo voi, al 349-238-6666, come diciamo ha fatto poco fa Tecné per Sky TG24, che ha chiesto agli italiani se sono ottimisti o pessimisti su un governo Bersani. Allora, diteci i vostri pareri al 349-238-6666. Grillo dunque lancia questa provocazione al vigilio del suo incontro con Bersani previsto domani. Lo chiedo ad Andrea Viali, che è in diretta. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Daniele, ufficialmente, lo ricordiamo, il Movimento 5 Stelle assicura che al suo interno non ci sono divisioni, non ci sono dissidenti, e in vista di questo incontro con Bersani ripete di essere fermo sul suo no ai partiti, e quindi il suo no anche ad un eventuale accordo con il segretario democratico, anzi addirittura per scongiurare poi quelli che sono i sospetti di, potrebbero essere sospetti di trattative sottobanco. I grillini hanno chiesto e ottenuto che questo incontro, il colloquio con Bersani, venga trasmesso in diretta su internet, quindi che avvenga nella massima trasparenza. E proprio in questo incontro, lo scrive oggi il giornale, lo hai accennato anche tu, ecco, Grillo potrebbe presentare un nome forte come candidato premier per superare la candidatura di Bersani. Il nome sarebbe proprio quello del Presidente della Repubblica, di Giorgio Napolitano, del quale Grillo sarebbe rimasto colpito in modo molto positivo nell'incontro che c'è stato nel corso delle consultazioni la scorsa settimana al Quirinale. C'è però da dire, lo hai detto anche tu, che Grillo è sempre stato molto critico nei confronti di Napolitano, e quindi una sua candidatura da parte del comico sarebbe veramente sorprendente, possiamo dire. Al momento, comunque, lo ripetiamo, si tratta soltanto di un'indiscrezione giornalistica, e ufficialmente il movimento, i grillini, ribadiscono la loro posizione, che è quella di un no secco a qualsiasi ipotesi di un accordo con i partiti politici, Daniele. Del resto, Giorgio Napolitano a Sant'Anna di Stazzema, quindi anche in un luogo molto simbolico, pochi giorni fa, e anche la mattina stessa alle Fosse Ardeatine, ha detto che quello sarebbe stato l'ultimo suo atto pubblico. E detto a Sant'Anna di Stazzema, davanti alla croce che ricorda 560 morti uccisi dai nazifascisti, pare un gesto forte, un gesto importante. Quindi credo che quella di Grillo sia una buttata, una provocazione, e sono pronto, diciamo, a scommettere quello che volete, che poi alla fine sì, probabilmente lo dirà, ma con il 100% delle probabilità Napolitano darà mandato a rimandare al mittente questa proposta. Bersani non ha alcuna speranza, dice Fulvio da Milano, i suoi tentativi di formazione di un nuovo governo sono ridicoli, deve dimettersi. Grillo è un clown e come tale continua a comportarsi, scrive Francesco. Sono di sinistra, se fosse vero Napolitano fa i salti di gioia, almeno per fare riforme, dice Angelo da Milano. Personalmente ritengo scandaloso e ingiurioso che mentre il paese affonda i nostri politici trattano le future cariche. Giuseppe da Udine. Roberto si dice molto pessimista. Da artigiano ne ha avuto abbastanza quando Bersani è stato ministro, quindi proprio spero non faccia nessun governo, dice Roberto da Bergamo. Sono ottimista, nel senso che non si farà, un altro ascoltatore, un disastro, un altro ascoltatore. Pessimista, dice Marcello da Firenze. Ai vostri SMS a 349-238-6666. Con noi c'è l'accoppiata, la nostra accoppiata, Vincenzo Miglietta e Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio. Allora, Miglietta, qual è la situazione al momento? Ho detto giusto che qui si sta attendendo almeno l'ok, Bersani sta attendendo l'ok almeno di Scelta Civica? Sì, sì, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, è così, sono intensi i rapporti in queste ore con Scelta Civica, perché al di là delle dichiarazioni ufficiali sembra, proprio come anticipavi tu da studio, che il Partito Democratico, che Bersani stia lavorando proprio per ottenere il drappello di voti dei montiani più qualche grillino al Senato. Un risultato intanto Bersani lo ha ottenuto, seppur limitato nel tempo sino a giovedì, è quello di avere una tregua nel suo partito tra le componenti che appoggiano il suo tentativo e chi invece vorrebbe un governo allargato anche a PDL montiani. Si tratta, lo ripetiamo, di una tregua, in quanto proprio già giovedì con il colloquio al Quirinale si capirà quale poi sarà il futuro del segretario. Bersani come sempre però sta giocando la sua partita, Daniele, a carte scoperte. Non chiediamo a nessuno l'impossibile, ha chiarito proprio nella direzione di ieri sera, e quindi con Scelta Civica ha aggiunto Bersani: un'intesa è possibile, alle altre forze chiedo di non impedire questa soluzione. Ecco, quest'ultima frase sembra indirizzata soprattutto alla Lega. Bersani ha chiuso la porta al Popolo della Libertà, ma spera che da Maroni possa arrivare un aiuto, seppur indiretto. Daniele. Intanto continuano ad arrivare i vostri SMS, sono centinaia e centinaia, 349-238-6666. Bruno dice: Bersani monti no, Grillo invece è solo un pagliaccio. Pavel dice da Verona, dice che PDL e Lega portarono il paese al declino. C'è chi si candida come presidente, come Marco Morana da Roma. Se non ci fosse la rete, ora Bersani starebbe facendo il governo con Andreotti, dice un altro ascoltatore. Non ce la farà, ha voluto a tutti i costi essere premier a scapito dell'Italia. Deve essere allontanato e lasciare il posto a Renzi, dice Pierluigi. Ho sempre votato centrodestra, ma avrei votato Renzi. C'è chi parla del professor Vaciago, non si sa a fare cosa oltre che il commentatore, e un governo con leader Renzi, dice Clelia. Ottimista, basta dare a Berlusconi la garanzia di immunità, dice Antonio al 349-238-6666. Ora ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito. Sì Daniele, allora le novità del Popolo della Libertà sono sempre quelle che conosciamo. Il Popolo della Libertà è pronto a fare un governo insieme a Bersani. Ieri c'è stata proprio questa proposta shock da parte di Silvio Berlusconi di fare un governo proprio di grosse coalizione di unità nazionale con Bersani premier e Alfano vice premier, proposta subito respinta da Bersani, che comunque incontrerà la Lega e il PDL qui a Montecitorio alle 16:15. La Lega vuole salire con il PDL perché nei giorni scorsi c'erano stati dei rumors secondo i quali magari i senatori della Lega avrebbero potuto dare una mano in aula a Bersani. Invece si dicono fedeli comunque a Berlusconi e la partita è sempre quella. Il PDL vuole il Colle, cioè il Quirinale, che sappiamo è scaduto prudenza. Napolitano ha già detto che non è interessato all'incarico. Addirittura Michela Biancofiore finalmente è venuta fuori con una proposta che dovrebbe unire tutto il PDL, quella di vedere il sogno da sempre di Silvio Berlusconi al Quirinale. Ovviamente ciò non sarà possibile, ma c'è chi parla invece di Anna Maria Cancellieri, attuale ministro degli interni, che non sarebbe sgradito nemmeno al PDL. Poi c'è da dire che c'è anche chi pensa a dei trucchi d'aula, ovvero gli autonomisti guidati da Gianfranco Miccichè di Grande Sud. Per far avere la fiducia a Bersani, 20 senatori magari sarebbero disposti a uscire dall'aula e a far cadere quindi il quorum, e quindi magari Bersani potrebbe anche farcela. Vabbè, staremo a vedere. Intanto sono tantissimi i vostri SMS da chi, come Damiano da Roma, dice: spero che Grillo capisca che ora serve una stabilità. L'unica cosa che importa a Berlusconi è salvare se stesso dalla galera, dice Luigi. Sono in linea col pensiero di Franco Battiato, credo dovrebbe smettere di essere intollerante verso tutti. Ci sono anche dei politici onesti con cui si può raggiungere un accordo. Avete fatto 349 238 6666, comunque la pensate. Domani ancora, 27 marzo, Italia in controluce, stessa ora, 13:30.